America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. You call women you don't like fat pigs, dogs, slobs and disgusting animals. Your Twitter account only is Rosie several... O'Donnell. Avete sentito una battuta di Donald Trump al dibattito fra i repubblicani del 6 agosto. Questa notte ci sarà il nuovo dibattito e Trump, devo dire, da allora ha tenuto banco, ha continuato a dominare il dibattito politico americano con queste sue dichiarazioni aggressive e non politically correct, ma nel frattempo si sono uniti altri due personaggi che questa sera daranno probabilmente del filo da torcere a Trump. E il duello più atteso è quello con Carly Fiorina. E pensate, Trump qualche giorno fa ha detto, Carly Fiorina, oh mamma mia, ma ve la immaginate quella così brutta da fare il presidente americano? E la gente ovviamente non ci poteva credere, perché insomma non sono cose che si dicono. Poi lui ha cercato di ammorbidire, dice, no ma io non dicevo brutta fisicamente, dicevo brutta come persona, insomma ha cercato di essere accomodante. Carly Fiorina, ex manager, ricordiamo, un ex amministratore delegato di Hewlett Packard, è cresciuta molto, è stata molto brava nel dibattito, molto brava negli interventi pubblici e dunque ci sarà questo scontro atteso fra loro due. L'altro personaggio che sembrava potesse tornare sulla cresta dell'onda era Chris Christie, il governatore del New Jersey, se non che già le cose gli erano andate male per il famoso scandalo, ma adesso c'è un nuovo scandalo nello scandalo, e cioè che l'amministratore delegato della United Airlines, che improvvisamente ha dato le dimissioni, lo ha fatto, pensate, proprio perché era coinvolto con alcuni dei personaggi vicino a Christie in relazione a quello scandalo. United Continental announcing that... Ecco, la vicenda comincia la settimana scorsa quando improvvisamente veniamo a sapere, come avete sentito da questo newscast, che Jeff Smisek, amministratore delegato della United Airlines, che dopo la fusione con la Continental è diventata la quarta linea aerea più importante del mondo, ha dato le dimissioni. Lì per lì si poteva immaginare che queste dimissioni fossero state determinate dal fatto che, insomma, la linea aerea, come molte linee aeree, devo dire, che hanno grandi difficoltà in questo momento, non andava bene. In realtà, nel corso del fine settimana, abbiamo preso altri dettagli e abbiamo scoperto che la United Airlines e il suo amministratore delegato si erano trovati coinvolti in una specie di scandalo o di collusione che aveva la sua radice, quantomeno nell'inchiesta giudiziaria, direttamente in un altro scandalo storico per il New Jersey, epocale per la politica americana e per queste elezioni presidenziali. Lo scandalo che coinvolse il governatore Chris Christie. Ecco, partiamo proprio da quello scandalo, perché la storia aveva dell'incredibile. Che cosa è successo? Che a Fort Lee c'era un sindaco democratico che si chiama Sokolich, il quale non aveva ceduto, come dire, alle lusinghe del governatore repubblicano Chris Christie. Christie gli aveva chiesto di appoggiarlo nella sua corsa per la conferma alla poltrona di governatore per il secondo mandato alla guida del New Jersey. Ora Sokolich, essendo un democratico, declinò l'invito e disse che lui in realtà non poteva, come dire, andare contro il candidato del suo partito e che quindi avrebbe seguito la sua strada. Dunque, dal punto di vista politico, poteva sembrare una giustificazione del tutto plausibile, se non che dopo la vittoria, la conferma di Chris Christie al secondo mandato, alcuni suoi luogotenenti decisero di vendicarsi con Sokolich, facendo attraverso la Port Authority, che è un'autorità che controlla gli aeroporti, il porto di New York, il porto del New Jersey e i ponti che collegano New York con il New Jersey, decisero di fare dei lavori stradali fittizi, cioè in realtà non c'era bisogno di fare alcun lavoro, ma decisero di muovere, e ci sono delle email in cui si legge, è arrivato il momento di creare qualche problema di traffico a Fort Lee. E quindi partirono questi lavori fittizi, vi ripeto, che crearono degli ingorghi enormi nelle ore di punta per coloro che cercavano di andare sul ponte. Questo è lo scandalo. Christie ha negato sempre di essere dietro questa operazione scandalosa, però è stato oggetto d'inchiesta, si è trovato in grado gravi difficoltà ed è per questo che oggi è molto indietro nella corsa per la nomination repubblicana. Ma arriviamo al collegamento con lo scandalo attuale. Ecco, avete sentito di nuovo la voce di Jeff Smith che dà le dimissioni l'altro giorno, ha ricevuto una buonuscita di 4,9 milioni di dollari in contanti più circa 3-4 milioni di dollari in azioni, con una clausola, e cioè se Smith sarà riconosciuto colpevole di collusione con le autorità del New Jersey, non riceverà una lira. Quando è partita l'inchiesta per ricostruire come la Port Authority avesse deciso di bloccare il traffico a Fort Lee, e ci si accorse attraverso altre email che c'era uno scandalo parallelo, e cioè che la United Airlines negoziava con un importante personaggio politico del New Jersey, David Sampson, molto vicino al governatore Chris Christie, per ottenere dei favori all'aeroporto di Newark, concedendo in cambio, pensate, un viaggio tra Newark e una cittadina della South Carolina. Non c'era alcuna rotta diretta fra le due città dove Sampson aveva una casa di vacanza, quindi per fargli praticamente un favore. Non solo, ma la Port Authority decise di fare lavori per circa 10 milioni di dollari di migliorie in un hangar della United Airlines, e allo stesso tempo la United Airlines riaprì una rotta che collegava con alcune grandi città Atlantic City, dove c'è il casinò importante del New Jersey. E questa particolare operazione, questa rotta, diciamo così, la voleva molto proprio il governatore, che voleva rilanciare la città di Atlantic City, che si trova in difficoltà. Questa inchiesta ha portato alla luce un certo modo di fare affari negli Stati Uniti, dove c'è appunto molta collusione. Perché vi ho raccontato questa lunga storia? Perché alla fine, qua in America, e alcuni di questi scandali vengono fuori, i colpevoli o i presunti colpevoli pagano immediatamente, se ne vanno, mentre invece, chissà, da noi magari ci sono gli stessi scandali, però queste soluzioni, diciamo così, per direttissima e legittime, dopo un'inchiesta che è durata circa un anno e mezzo, nel totale silenzio, non si sapeva assolutamente nulla, si è arrivati alla fine e questo signore ha dato le dimissioni. Anche questa è America. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, The Birds, The Airport Song. You make me smile, and all the while you're so cool, I can feel you care if it's real. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.